sé que no mi pan pasaré. Estanco de ver que me han fatto male. Io cerco strade libere dove sorpassare le mie paure, i limiti delle mie emozioni. Senza te non so respirare, soffocano qui tutte le intenzioni, e piogge acide bagnano i pensieri, scivolano le mie convinzioni. Io cerco strade libere dove sorpassare le mie paure, i limiti delle mie emozioni. Io cerco strade libere dove sorpassare le tue paure, i limiti delle tue emozioni. Scoprirò la tua voglia andrai, sentirai il piacere che vuoi.